finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Abbiamo un minuto. Abbiamo un minuto a prove tecniche di trasmissione. No, manco quello. 22 e 30 minuti. Per l'esattezza, 25 o'clock ai controlli. 8 di novembre. 2017. Secolo, fatti i conti, calendario giuliano, insomma, vabbè. Novembre 2017, un bel casino combinato lì a quella che all'epoca si chiamava Pietroburgo. Poi di nuovo Leningrado e poi infine Pietrogrado, vabbè. 100 anni di storia, come dire, in toponomastica, in toponomia. E venerdì 10 novembre 2017, a partire da una certa ora, anche prima, 22 c'è scritto, ma anche prima, venite al forte, via Federico D'Alpino, Centocelle, Roma, concerto con Winter Severity Index. Poi a seguire DJ set Dark Wave Electronica Industrial con il Nottibus Panis Electrodo di prove tecniche di trasmissione Mitta Geisen. Skillar. Che è successo? Lo vedete? Accidenti, la sigla. Riproviamo a mandarla da capo. Sì, questa è una sorta di, come dice lo spot, la maledizione della rosa nera, qualcosa del genere. Eh sì, quando si parla di Winter Severity Index entrano in gioco un sacco di spiritelli malvagi. Gli stessi che questa estate, questo fine primavera scorso, qui si registrò l'ultimo temporale prima di un'estate torrida e siccitosa, un temporale che andrò concentrando, proprio che andò a scaricare tutta la propria forza creatrice sul forte prenestino. Fulmini che cadevano ovunque, entravano dentro il forte fino all'impianto elettrico, andavano a fulminare tutto, e per cui dopo 3 o 4 brani di Winter Severity Index è saltato tutto. Ci siamo rifugiati un po' dappertutto perché sembrava veramente una specie di fine del mondo, e invece poi ci siamo salvati come sempre. Per il rotto della cuffia siamo ancora qui. Il forte c'è ancora malgrado la concentrazione di spiriti ectoplasmi e demoni di quella sera. E ci riproviamo quindi venerdì prossimo, tutti al Forte Prenestino. Vedete? Avete sentito poc'anzi invece dalle parole di Marco del P38 Punk? La tre giorni del... La mandiamo così velocissima perché magari riusciamo a concludere qualcosa, ma pare che la sigla proprio non voglia partire questa sera e perciò ci riproviamo ancora una volta e poi semmai la tronchiamo. La tronchiamo però subitissimo perché vi diciamo che non ve l'abbiamo detto che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. Per quanto riguarda le frequenze dell'etere qua intorno trasmesse da Monte Cavo, da paura, sta succedendo veramente di tutto. E vabbè, dai. Si ricomincia ancora una volta con Disconnection Notice. Non riusciamo a disconnetterci. Dicevamo appunto 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Invece www.ondarossa.info, il sito della radio. Sito della radio che cliccando poi su ascolta la diretta, c'è un bel tasto al centro della pagina. Ed è con quella appunto andate ad ascoltare un po' da internet in streaming, quindi dovunque voi siate, la radio non vi lascia, non vi abbandona. Ve lo diciamo ancora, andremo a giocare con la storia, con... i grandi temi dell'umanità, i grandi temi della lotta di classe. E lo faremo senza alcuna sacralità, appunto, in maniera dissacrante. Provando a presentare l'estetica e forse, se ci riesce, il lato emozionale, il lato profondamente umano di quelle vicende di 100 anni fa. Lo andremo a fare perché questa radio, questi giochetti, questa sperimentazione è già parola troppo grossa. Andremo a fare questi giochetti perché la radio è ancora viva. Questo qui, niente, riparte tutto al solito. Ed evviva! Grazie soprattutto a tutte e tutti voi che la ascoltate, la sostenete. Per sostenere Radio Onda Rossa, sempre sul sito, ci sta il tastino in alto. Sulla destra della pagina, dove ci sta una paginetta in cui ci sta scritto come fare per sostenere anche economicamente questa radio. Vi ricordiamo anche il 61 80 40 01, che è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Vi ricordiamo per le vostre comunicazioni alla radio Ondarossa @ondarossa.info, e per le vostre proteste, per il vostro rammanico, c'è la mail del sottoscritto 25 o'clock@ondarossa.info. E infine 06 491 750, recapito telefonico. Andiamo a finire questo strazio della sigla che non vuole andare oltre il secondo minuto e mezzo, il terzo minuto, sperando che saremo più fortunati con le prossime tracce che inseriremo nel lettore di CD CDJ di sinistra. Quindi lasciamo sfumare la sigla che tanto non va a termine e mandiamo subito la prima traccia della serata, e poi vedrete come si dipanerà la scaletta di questa sera, che ci saranno poche parole, dai, e faremo parlare appunto qualcun altro al posto nostro, che forse è anche meglio. Realtà. passato e quel muro è ormai crollato. Oramai la verità è quella dell'America. Ci diranno del terrore Golan e deportazione, ci diranno che è sbagliato, ti diranno che è fallito. Vogliono far scordare lavoratori a comandare della loro produzione, fabbriche senza padrone. E anche la nostra libertà, quanto è figlia di quel sogno, di quella bandiera rossa che si alza su Reichstag. Così è nata Soyuz, una stella brilla d'Oriente. Istituzioni di diritto proletario sono diventate realtà. Così è nata Soyuz, sovieschi socialisti e spiespoblei. Istituzioni di diritto proletario sono diventate realtà. Sogno che succeda la mattina qualcosa, qualcosa di grosso, magari anche la rivoluzione. visto per la prima volta, di comportarti secondo i doveri della buona moglie. Lo seguirai ovunque stabilirò di andare, eccetera, eccetera. Non è vero, ho scelto l'avventura. C'è la rivoluzione, Pietro Gatto. Tu vuoi essere là, e anch'io la voglio. Non ne posso più di fare l'intellettuale da sotto. È brava la buona moglie. E poi c'è la mia carriera. Senza te sarei zero, non sarei considerata come scrittrice. Stando qui accanto, ho una qualche speranza di sfondare. Anche per questo ti ho seguito. È un po' troppo interessante. Ma ti amo lo stesso. John, insegna a scrivere. Come te. Ok, ragazzi. Allora, prima di tutto, bisogna tenersi fuori. Leggi. Leggi tutto di tutto. E stampa in testa ogni cosa che trovi su ciò che vuoi trattare. Prima di arrivare in un paese, devi già sapere quello che lì potresti trovare. Mm? Su, datelo fare, ragazzi. E leggiamo i giornali. 16 marzo 1917. Il popolo russo abbatte il regime zarista. Crolla una delle più antiche monarchie del mondo. Costituito a Pietrogrado un governo provvisorio che promette riforme democratiche. Stati Uniti d'America, Francia, Gran Bretagna e Italia riconoscono il nuovo governo. Timore in Occidente. La Russia, oggi allo stremo, continuerà la guerra? Miliukov, nuovo ministro degli esteri, ha dichiarato. A tutti i nostri rappresentanti diplomatici all'estero, il governo ora costituito assicura che la Russia rispetterà gli impegni assunti con le nazioni alleate e continuerà fermamente la guerra contro la Germania e l'Austria fino alla vittoria totale. Fino alla conquista di Costantinopoli, dell'Armenia, della Persia settentrionale e al conseguente smembramento dell'impero austro-ungarico e dell'impero turco. Questi sono gli intendimenti che il nuovo governo perseguirà con la massima decisione, confortato dall'unanime volontà del popolo russo. My apple, what's brown goes on the ground, my apple, it's the mole. In realtà oggi Russia c'è un braccio di ferro fra due forze che vogliono cose del tutto diverse. Da una parte c'è il governo provvisorio, che rappresenta gli interessi della borghesia e tira a trasformare il vecchio stato zarista in una repubblica di tipo occidentale. Dall'altra ci sono i soviet, consigli eletti spontaneamente da operai, contadini e soldati che chiedono pace, libertà e la distribuzione delle terre. Il tutto in una confusione di partiti e partitini vari. Tra questi però, mi sembra che il più attivo e meglio organizzato sia quello dei bolscevichi. Il loro capo, Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin, è tornato in patria dall'esilio un mese dopo l'arresto dello zar, facendo un lungo e pericoloso viaggio attraverso l'Europa in guerra. Sconvolgimento sociale. Voi avete così spalancato una nuova epoca nella storia del proletariato internazionale. Appena arrivato ha subito trascinato tutta la folla dalle sue parti. È chiaro, perché Lenin ha detto quello che la gente voleva sentire. Pace, cibo e libertà per tutti. Mentre gli altri partiti socialisti, e soprattutto il governo provvisorio, insistono perché la guerra con la Germania continui. Dobbiamo lottare ancora e più duramente fino alla vittoria completa del proletariato. Compagni, gridiamo viva la rivoluzione socialista! Il giorno dopo Lenin è andato a parlare nel palazzo di Tauride, all'assemblea dei soviet, pur sapendo perfettamente che lì si sarebbe scontrato con tutti i suoi più accaniti avversari. Continua oggi la stessa politica imperialistica del regime zarista. Basta, fatelo tacere! Basta, è un falso giocattivo! morire in trincea i nostri figli. Noi bolscevichi ci opponiamo invece a che questa guerra infame continui. Guerra che è solo una sordida contesa fra potenze imperiali per stabilire chi sarà a conquistare più mercati e a soffocare più popoli sotto il suo tallone di ferro. Ma il governo ora è alle strette. È obbligato a mentire al popolo, a nascondere i suoi scopi. Promette a tutti il massimo, in teoria. Ma quando si tratta poi di venire a fatti concreti, realizza meno del minimo. Con una mano concede generosamente e con l'altra toglie. Non è possibile, cacciatelo via. Ne sapete voi che siete da anni in Svizzera di quello che succede qui? Siete voi che non conoscete le vere aspirazioni del popolo russo. Non avete coscienza di classe. Per soffocare la rivoluzione lusingate la gente con traguardi irraggiungibili. E il vostro Kerensky fa la sirena d'escatrice per ingannare operai e contadini. Con la sua oratoria piena di demagogia spande parole belle e altisonanti ma vuote, mentre tutti gli altri ministri tramano le loro manovre a solo danno del popolo. Dal resoconto della prima assemblea dei soviet salta fuori chiaramente la tesi di von Wien, una tesi che ha stupito tutti, all'inizio persino gli stessi bolscevichi. Io, Aleksandr Fyodorovich Kerensky, proclamo solennemente: la Russia non può arrivare al socialismo gradualmente attraverso un regime parlamentare borghese come promette il governo provvisorio. Per far finire quella guerra estenuante e risolvere in senso socialista i problemi della terra e della rinascita della vita, è necessario passare subito alla presa di potere dal basso verso l'alto. È il migliore di tutti? Per ridare fiducia ai partiti di governo. E invece in Galizia subisce una disfatta irreparabile. L'esercito russo perde centinaia di migliaia di uomini che si vanno ad aggiungere al 1,5 milioni di morti dei primi 3 anni di guerra. Quegli stessi giorni di luglio a Pietrogrado si è scatenato il tumulto. Per la prima volta affiancati, i soldati della guarnigione, gli operai delle fabbriche, si sono gettati nelle piazze per imporre al governo la fine della guerra e il passaggio di tutti i poteri ai soviet. Alto tradimento e tempo di guerra. Collusione col nemico. Espionaggio. La stazione. Cosa può accadere, Vladimir? Credo che il nostro partito sarà messo fuori legge. I nostri nemici tenteranno con ogni mezzo di sopraffarci. Di disperderci. Ed è chiaro che tutto questo all'inizio farà gioco della borghesia. Ma vedrete che alla fine risulterà utile alla rivoluzione. Ci attendono giorni tormentosi, compagni, ma che saranno utili alla rivoluzione. Arrivederci. Arrivederci. Sono contento. Thank you. In meno di un mese, tra morti e disazioni, abbiamo perduto circa il 60% dei nostri effettivi. Quindi dovrebbero esserci viveri in più. Al contrario, con quello che ci arriva qui non riusciamo a sfamare neanche la metà degli uomini. Ci avevano promesso razioni speciali, invece... Come potete combattere se non mangiate? Non possiamo, infatti. Che fanno quei soldati laggiù? Ah, sono delle ore che sono riuniti a discutere. Dicono che è una conferenza della pace. Una conferenza della pace tra le bombe. Ah, tutti in questa trincea siamo dalla parte dei bolscevichi. Prima sì, credevamo al governo provvisorio, che prometteva la libertà alla povera gente. Invece ha dato tutto e soltanto ai borghesi. E a chi si è fatto ricco con la guerra. Così abbiamo parlato un poco fra noi. Abbiamo scoperto che siamo tutti quanti d'accordo con quello che va dicendo il giornale dei bolscevichi. Ecco. Ci avete portato niente da leggere? Vogliamo sapere che succede a Pietrogrado. Scriveremo tutto ciò che ci avete detto. È tutto quello che abbiamo visto. Tutti dovranno sapere quanto soffrite. E che volete solo la pace. E subito. John riempiva pagine e pagine di appunti su tutto quello che vedeva al fronte, nei villaggi. Immagazzinava materiale che non serviva solo per i suoi articoli. Già nella sua mente prendeva forma l'idea di scrivere un libro. Memoria, ci farà memoria. Qualsiasi slogan, non sa che significhi, e ripete tutto a pappagallo. Proletariato e la borghesia, non c'è altro. Ti riempi la bocca con frasi senza senso. Beh, io so solo questo. Senti, pure io sono marxista. E ti dico che quello per cui voi li battete non è il socialismo. È un'anarchia che servirà solo a far vincere la guerra ai tedeschi. Sì, certo, lo capisco, voi siete un uomo istruito. Infatti. Io sono una persona semplice. Infatti. Sì, insomma, sono uno che parla come massa. Ma tu credi davvero che Lenin sia amico del proletariato? Beh, io sì. Oh, ma benissimo. Allora lo sai che Lenin è stato mandato qui dai tedeschi, dal nemico, No, questo non lo sapevo. Però una cosa la so. Lenin dice certe cose che a me stanno bene. E a tutti quelli come me lo stesso. Perché ci sono due classi. Una è il proletariato e l'altra è la borghesia. Idiota! Io mi sono fatto 2 anni di galera lottando per la democrazia. E il mio nome è Vassili Yankevich Panin. Non hai mai sentito parlare di me? No, mai. Vi chiedo scusa. Io sono così ignorante. Voi dovete essere un grande eroe. Bravo, l'hai detto. E mi batto contro i bolscevichi perché vogliono soffocare la Russia e la nostra libera democrazia. E su cosa hai da dire? E chi è che dice niente? Tanto la cosa è chiara. Gliel'ho detto, sono ignorante. Allora? E allora il discorso si riduce a questo. E che ci sono sempre due classi, il proletariato e la borghesia. Io divento pazzo se non cambi musica. Ci sono solo due classi. E chi sceglie di stare con una è nemico dell'altro. Ha ragione, basta con la guerra. È così, compagni! Noi al fronte moriamo per niente! Noi vogliamo una completa democrazia! Quando la terra apparterà ai contadini, le fabbriche agli operai, il potere ai lavoratori, allora sapremo di avere qualcosa da difendere! E ci difenderemo fino all'ultimo! Voi giornalisti americani, fate sapere all'America che noi russi ci batteremo fino alla morte, ma solo per la nostra rivoluzione e per difendere le conquiste che ci darà. Esisteremo con tutte le forze fino a che non verranno in nostro aiuto tutti i popoli del mondo! Cari compagni, io rappresento qui il partito bolscevico e mi ha mandato a parlarvi il soviet della flotta del Baltico. Noi sappiamo bene che tutti i marinai sono già con noi e oggi vi chiediamo di battervi perché è giunta l'ora che il potere passi nelle mani dei rappresentanti del popolo, nelle mani cioè dei soviet. La rivoluzione è una malattia. Una malattia contagiosa. Purtroppo si diffonde a macchia d'olio, difficile fermarla. Il bolscevismo è un pericolo anche per gli altri paesi. Il signor Lianozov suggerirebbe una cura per questa malattia. Non sono un medico, dico solo che la Russia ha degli alleati. Il signor Lianozov pensa che dovrebbero. Sta dicendo che lei non esclude il ricorso all'aiuto straniero contro i bolscevichi? Il signor Lianozov pensava a una soluzione di questo genere per bloccare la rivolta. Purtroppo sì. È un passo assai grave, è chiaro. Ma le potenze occidentali dovranno intervenire. Come si interviene per curare un bambino ammalato? Per rimetterlo in piedi. Insegnargli di nuovo a camminare. Direi che sono stato di questo non mi porto di dei lezzi, quello che penso non lo dico tanto. Se non erro, alcune delle mie opinioni vi sorprendono alquanto. No, tutt'altro. Ce li aspettavamo dal Rockefeller russo, così la chiamano, no? Il Rockefeller russo. Mi adulano, sa? Magari lo fossi. Non posso davvero paragonarmi al vostro grande finanziere. Non si è bisogno di questa sinergia. Come consiglio il suo nazionalismo con la richiesta di un intervento straniero per risolvere i vostri problemi interni? Naturalmente ho fatto l'ipotesi estrema. Può anche darsi che un intervento degli alleati non sia proprio indispensabile. Il paese oggi è a pezzi. I tedeschi stanno avanzando. È probabile che la fame e la sconfitta militare riportino il consenso nella testa del popolo russo. L'inverno si avvicina. L'inverno è sempre stato il miglior amico della Russia. Le miniere stanno chiudendo. Non possiamo più perdere tempo. Ma perché non è tutto spanere sul cielo d'inverno per ridurci all'impotenza? Loro vogliono farci morire di fame. Loro vogliono farci morire di freddo. Ma noi spazzeremo via loro. Li spazzeremo via come schiuma dalla faccia della terra. La situazione è matura per il passaggio del potere nelle mani del proletariato. La gente è stanca di aspettare risoluzioni. In questo momento abbiamo dalla nostra parte la maggioranza del popolo convinta del nostro programma. Appunto per il libro. Prima riunione del comitato centrale. Vi partecipa Lenin per la prima volta da che è passata la clandestinità. Riunione tenuta in casa dalla signora Sukhanova, una simpatizzante bolscevica, riuscita con uno stratagemma ad allontanare il marito, noto esponente di un partito di governo. Scatenare un'insurrezione armata adesso significa mettere in gioco non soltanto la sorte del nostro partito, ma anche quella della rivoluzione russa e, guardando più in là, di quella mondiale. No, noi temiamo che ora la rivoluzione possa fallire. Non abbiamo forze sufficienti. Prendiamo tempo. Il congresso dei soviet manderà a casa il governo Kerensky. Le proposte di Kamenev e Zinoviev darebbero al governo tempo per organizzarsi. Perdere l'occasione ora significa rinunciare per sempre al successo. Ha ragione Stalin. Direi che le posizioni sono chiare. A voi, Yakov Mikhailovich. Allora, partiamo dal presupposto che la rivolta... Approvata con due soli voti contrari la deliberazione di passare alla insurrezione armata. Decisione che cambierà il destino della Russia, se non del mondo intero. Sono pochi tra gli operai delle fabbriche. È che aspettiamo tutti il grande giorno. E allora? Noi operai delle fabbriche siamo tutti nella Guardia Rossa. È l'esercito dei liberi combattenti bolscevichi. Mm-hmm. Di questo passo finiranno per arruolarsi anche i padroni. Ma voi qui nelle fabbriche tenete anche delle armi? Certo che le abbiamo. E vorrei vedere che ci dicessero qualcosa. Le teniamo tutti quanti a portata di mano e cariche. Gli hanno dato istruzioni precise. Ognuno sa cosa deve fare. Buona fortuna. Seconda fila, due passi avanti. Attacco la bagnoletta. Sembrano i tuoi peones messicani. Portano le bandoliere e tracolla sugli abiti civili. Sì, ma in Messico eravamo in piena guerra civile. Qui le guardie rosse si esercitano tranquilli, insieme ai militari. Questi bolscevichi sono proprio matti. Saranno anche matti, ma io la mia scelta l'ho fatta. Sto con loro. Ma vuol dire che sei bolscevico? Un vero bolscevico? Certo. Vogliono la stessa giustizia sociale che vogliamo noi. La vogliono con più passione di qualsiasi altro gruppo che esiste in Russia. La vogliono disperatamente. E la vogliono subito. Annotazione. Corre voce che in una seconda riunione del Comitato Centrale, Lenin ha costituito il centro operativo dell'insurrezione che deve lavorare in stretto contatto col Comitato Militare Rivoluzionario del Soviet di Pietrogrado. E non possiamo lasciare niente, proprio niente, all'improvvisazione, al caso. Punto primo, stabilire i compiti e le responsabilità di ciascuno. Punto secondo, mobilitare tutte quante le organizzazioni nelle fabbriche, nelle caserme. Gli uomini si tengano sempre pronti al nostro segnale che farà finalmente scattare la rivoluzione in tutto il paese. Al vento urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. We'll be right back. sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore e il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta sarà del partigian. Già decisa è la dura sorte del fascista, vile traditor. Cessa il vento, calma la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi due membri del comitato centrale del partito che svelano le intenzioni dei bolscevichi, i piani dell'insurrezione, fatto gravissimo. Ma ancora più grave e allarmante è la reazione del delinquente Lenin, che ora latitante sotto l'accusa di crimini contro lo Stato è passibile di morte. Vi leggo un suo articolo. Malgrado i traditori Kamenev e Zinoviev abbiano rivelato le nostre decisioni, il partito non rinuncerà all'insurrezione armata, non rinuncerà mai. Il governo deve quindi constatare che una grande parte della popolazione di Pietrogrado si è posta senz'altro, deliberatamente, apertamente, in modo irrevocabile, in stato di insurrezione. Il governo dovrà di conseguenza adottare le drastiche misure imposte da questa situazione. Convocare a Pietrogrado tutti i reparti disponibili di allievi ufficiali e i reggimenti di cavalleria e di artiglieria della zona nord-occidentale. Ritirare dal fronte le truppe fedeli e concentrarle nella capitale. Dobbiamo agire con estrema rapidità e arrestare i membri del comitato centrale bolscevico. Arrestare Lenin soprattutto. E tutti i membri del comitato militare. Colpare lo Smolny, poveri bolscevichi. Fucilare tutti, senza eccezione. Non ce la perdono l'istante necessario. E chiudere il giornale Nuova Russia e anche quell'altro, il soldato. Arrestare i redattori, i tipografi. Chiudere i giornali e fucilare tutti. A cominciare dai redattori stessi dei giornali, fucilarli tutti, fucilare in massa. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Ricevo in questo momento il testo del proclama, diffuso dai bolscevichi, del Comitato Militare Rivoluzionario, tra le nostre truppe che combattono al fronte. Sentite quello che c'è scritto. Il Soviet di Pietrogrado è in pericolo. Ordiniamo a tutte le unità dislocate sul fronte di guerra di smobilitare, di sciogliere i ranghi e di attendere istruzioni dal comitato. Lo sfrutta bene quel proclama il signor Kerensky. Questo è un altro chiaro tentativo di sollevare la plebaglia russa contro l'ordine costituito. Si vuole disgregare la difesa dell'esercito per aprire una breccia al fronte attraverso la quale passeranno compatte le divisioni germaniche. Questo governo dichiara formalmente che tutti gli elementi, tutti i gruppi, i partiti che in qualche maniera minacciano o osano alzare la loro mano contro la libertà del popolo verranno eliminati nel modo più immediato, più deciso e per sempre. Ricordo che in quei primi giorni di novembre vento e nebbia gelata invadevano le strade. Si sapeva che qualcosa doveva accadere, ma nessuno sapeva quando. Guardavamo tutti verso lo Smolny, un ex collegio per le figlie della nobiltà, dove si erano installate le organizzazioni rivoluzionarie. Il tuo gruppo ha il compito di difendere i giornali bolscevichi. Assicurati di due cose, che la tipografia resti aperta e che i giornali escano regolarmente. Non devo fare altro, tutto qui. Ogni compito è importante. Hai capito quello che no? Sì. Lo canalò. Ieri Trotsky è riuscito a far passare a noi la fortezza di Pietrapaolo con tutta la guarnigione. Ora i suoi cannoni sono puntati sulla città e sul palazzo d'inverno. Difendila con le guardie rosse, non far entrare nessuno. Salvo quelli che hanno la nostra parola d'ordine, è diretta. Sta tranquillo. Allora scrivi, il Soviet di Pietrogrado assume su di sé la responsabilità di mantenere l'ordine contro gli attentati controrivoluzionari. Un messaggio, è di estrema urgenza. La stazione radio dell'incrociatore Aurora lo deve trasmettere subito. Sì, lo so. Corri, venite con me. C'è qualcuno degli equipaggi della flotta interna? Io! Ah, sei tu. Questo è l'ordine numero uno per i vostri comitati d'azione. Vai eseguito. Signor Stupi. Ehi, bisogna spostare il certo reggimento! Dov'è il capo comitato di riga? Yurenev. Dimmi, papà. Con te siamo già d'accordo su tutto, no? L'ordine è scritto per il tuo comando. Potete agire subito. Bene. In bocca al lupo. Terra Rutunianz. Eccolo. Mi pare che anche con te sia tutto chiaro. Tutto. Allora ecco gli ordini. Eseguire. Senza alba. Corri. Il momento è arrivato. È inutile fare lunghi discorsi. I propagandisti intercettino ogni reparto richiamato dal fronte da Kerch. E spieghino bene ai soldati e agli ufficiali che il governo può utilizzarli contro il popolo. Andate. Vasiliev, sono qua, Nevsky. Quante autoblinde avete che funzionano a parte quelle di servizio? 18. Tutte camion e automobili? Più o meno 2000. Master, com'è il numero della gente? Ma per la maggior parte sta con lui. Vada della tua. Ah, dal colonnello? Sì, dal colonnello. Subito. Ma no, cosa mi fai dire? Mi fai confondere. Che colonnello? Ora è commissario dell'arsenale della protezione, capito? Sì. Corri da lui e gli dici che l'ho dato io, l'ordine, va? Aspetta. Perché avete ricevuto i fucili così tardi? Doveva mandarci nella fabbrica, là li avevano già finiti. Sì. Beh, non perdiamo altro tempo. Va adesso. Sono Podvojski. Passami il commissario. partito bolscevico ha conquistato la maggioranza nei soviet delle principali città russe. Signor Trotsky, al punto in cui siete, a un passo dall'insurrezione armata, e con quello che ha dichiarato Kerensky nell'ultimo discorso, quale mossa farà il governo in carica? Il governo impotente potrebbe mantenersi al potere solo al costo della guerra civile, ma i soldati sono con noi. Se ho capito cosa ha detto, lei è certo che avrete ragione del governo provvisorio. E quali saranno le ripercussioni in tutta l'Europa se riuscirete a prendere il potere? Dopo aver creato il governo dei soviet non ci fermeremo. Dalla Russia comincerà la rivoluzione mondiale. Il primo passo, anche se Lenin non è d'accordo, sarà la formazione degli Stati Uniti d'Europa. Non attraverso la diplomazia, ma con la lotta dei popoli. È chiaro che senza l'azione delle masse europee questo obiettivo non si realizzerà. Non oggi almeno. La situazione ormai è giunta a un punto critico. È certo che un ritardo sarebbe fatale. Con tutte le mie forze cerco di convincere i compagni che ormai tutto è appeso ad un filo. Che vi sono certi problemi che non possono essere risolti né da riunioni né da congressi, ma esclusivamente dal popolo, dalle masse, dall'azione e dalla lotta delle masse armate. Aspettare è un errore. Aspettare è un delitto. La storia non perdonerà gli indugi dei rivoluzionari che avrebbero potuto vincere oggi, che vinceranno sicuramente oggi. Rischiano invece di perdere molto denaro. Rischiano di perdere tutto. Aspettare equivale alla morte. Vladimir Ilyich, hanno rafforzato le pattuglie. Hanno alzato i punti. Non è possibile passare per Corso Olivieri, né per via Oktinsky. Ci sono ronde dappertutto. No, io non mi arrischio a toccarvi là. Forse avete una visione o l'altra del rapporto di forze in città con l'ammiraglio. Tranquillo, vi prego di accompagnare. Sono andato dove non volevate che andassi, Ilyich. Nessuno è riuscito ad individuare il luogo da cui Lenin guida la rivoluzione. E nessuno di noi giornalisti è in grado di realizzare quella che sarebbe l'intervista più sensazionale del secolo. Quanto ne so, se questa rivoluzione socialista finirà per vincere, vogliono togliere le proprietà ai padroni, le case, le fabbriche, gli stabilimenti, e vogliono trasformarle in beni comuni, di tutti. Voi, Ivan Vasilievich, pensate davvero che gente come quella sarà in grado di dirigere lo Stato, di dirigere fabbriche, stabilimenti? Senza annessioni territoriali e senza indennità di guerra. Confisca della proprietà privata e presa di potere dei contadini e degli operai. Senti, ho la strana sensazione che tu stia diventando un autentico bolscevico. Lo sei o no un bolscevico? E perché no? Ho solo un saltino da fare per diventarlo. Il vecchio ragazzo mio. Qui ci vuol poco entusiasmarsi, a prendere fuoco, a convincersi di essere un vero rivoluzionario solo perché si è scritto un libro sulla rivolta dei peones messicani e qualche articolo contro la guerra. Ma poi a casa. Saprei essere mai. Potrei essere un bolscevico in America. O rischierei di apparire politicamente un povero dilettante. Mm? Compagno commissario! Stanno telefonando dal palazzo d'inverno, è Kerensky. Chiedete al comandante. Dì che il comandante della fortezza l'abbiamo arrestato. Vai. Sì, signore. Trasmetti allo Smolny che l'arsenale è in mano nostra e aspetta gli ordini del comitato. Bene. Scusate, cittadino comandante. Posso chiamarvi compagno, perché a voi non piacerebbe certamente. Non posso darvi del signore, perché questa d'altra parte non piacerebbe a me. Come rappresentante del comitato rivoluzionario, vi ordino di far risalire la nave fino al palazzo d'inverno. Cittadino commissario, vi faccio notare che lo stato di navigabilità del fiume non lo consente e c'è il rischio di incagliarsi in un banco di sabbia. Compagno Zakharov, avete scandagliato la profondità della neve? Sì, fino in città. E il risultato? L'incrociatore può passare tranquillo. Sarà, ma io mi rifiuto di obbedire. Arrestato, e date ordine di saltare le ancore. D'accordo. Devo cedere alla violenza. Condurrò l'Aurora dove volete voi. Avvisate la base di Helsing Force? Sì, con telegramma si trova. Inviano subito le parti da sbarco per presentare. È il fronte del palazzo d'inverno. Lo tengono gli allievi ufficiali. Come faranno i nostri posamini ad arrivare fino al palazzo? Va preso. Snidiamo gli Junker dal ponte ad ogni costo. Sono tutte già in mano di un solo. Kerensky e i suoi ministri si sono serragliati negli edifici del palazzo d'inverno, difesi da reparti di Junker, i giovani e fedelissimi allievi delle scuole militari, e da truppe dei famosi battaglioni femminili d'assalto. Lenin ha già stilato il testo del proclama da lanciare a popolo. Ai cittadini della Russia, il governo provvisorio è stato dichiarato deposto. Il potere dello Stato passa nelle mani del Comitato Militare Rivoluzionario del Soviet di Pietrogrado, e si pone alla testa del proletariato e della guarnigione della città. Il governo provvisorio ormai governa solo sul palazzo di inverno. Ancora per poco lo prenderemo. Sveglia ragazzi, stanotte c'è stato il finimondo. Vestitevi, ti aspetto giù, presto. In 2 minuti arriviamo. Voi siete dalla parte del governo? Non c'è più il governo. Abbiamo dato un calcio in culo. La tua calma apparente nascondeva un'ansia che non ti dava tregua. Eri preso dallo smanio di sapere, di vedere, di partecipare. Ti trascinavi da una parte all'altra della città. Volevi arrivare in tempo, non perdere niente, essere presente dappertutto. Vivere in prima persona ogni avvenimento di quell'ora febbrile. Come eravate? In giro per la città? È straordinario quello che accade! E qui cosa succede? Ieri ha parlato in storia! Quando? Pochi minuti fa! E arrivavi prima! Allora prepareremo l'ultimatum ai ministri e glielo manderemo con un motociclista. Li terremo pronti a far fuoco. Le munizioni dei cannoni ci arriveranno dall'arsenale. Andrà tutto come previsto, Antonov sempre. Siamo pronti, compagno! Tornerò presto. Sta tranquillo. Aspettano, per un'intervista. Potete passare. Grazie. Giornalista anch'io, visto? Non si può entrare, signori. Queste sale sono adibite all'ospedale militare per i signori ufficiali, i signori soldati. Ma è chiaro che siamo andati invece allo Smolny, dove stava per cominciare il congresso dei soviet di tutta la Russia. Ehi, Louise, John! Resti! Alle! Sediamoci. Lenin non c'è, e neanche gli altri bolscevichi. Perché non è stato ancora preso il palazzo d'inverno? Cosa fanno i nostri capi militari? Dite loro che va abbattuta anche quest'ultima barriera. Compagno commissario, c'è un passaggio. Entriamo e spaventiamoli con una granata, d'accordo? così, ben qui dalla tuba. Calma, sentirò lo Smolnik che dico. Sono il sindaco di Pietrogrado. Siete cittadini, tanto è inutile, non si passa. Siamo in assoluto. Noi siamo russi come voi. Se avete il coraggio di spararci addosso, siamo pronti anche a morire. Io sono il presidente della Duma della città e in quanto tale vi ordino di farci passare subito. Dobbiamo recarci al palazzo d'inverno. Io ho degli ordini. Il comitato militare rivoluzionario ha detto di non lasciare andare assolutamente nessuno al palazzo d'inverno. Ma questo è vero. Noi vi offriremo il petto. Sparate se avete il coraggio. E dove? Vada con te. Non ci fermerete. L'autorità va rispettata. Andiamo, signore. Passare, accidenti a voi. Se passiamo lo stesso, che ci farete? Marina ignorata. Cosa ci farete se passiamo? Sentiamo che cosa ci potrebbe capitare. Avanti. Tempi, vi prenderemo tutti quanti a calci nel culo. Ecco quello che faremo. E se poi proprio ci costringerete, allora spareremo. Vigliacchi, parare dei lutti. La galera per gente come voi. Signori, torniamo alla Duma. Faremo una seduta straordinaria. Voteremo un ordine del giorno per salvare il paese. Ma solo noi salvare la Russia. Ecco, bravo. Andiamo. Andate a salvare la Russia. Sei certo di fare la cosa giusta? Non è il nostro paese. Io sto dalla loro parte. Qui che si riuniva il governo. Yeah! Essen era ancora caldo. Nostro congresso dei soviet, in base alla volontà della maggioranza degli operai, dei soldati e dei contadini, e in base anche alla vittoriosa insurrezione realizzata dal coraggioso popolo di Pietrogrado, il nostro congresso prende oggi nelle sue mani tutto il potere. Costruire tutti l'ordine socialista nel nostro paese. Ma ora il problema più urgente e più doloroso è quello della pace, che è l'aspirazione fondamentale delle classi lavoratrici dei paesi belligeranti, martoriati e sconvolti dalla guerra. Il governo sovietico degli operai e dei contadini russi propone a tutti i popoli e a tutti i governi di cominciare immediatamente le trattative per realizzare il fine cui ogni uomo deve tendere, per realizzare in tutto il mondo la pace. L'ordine socialista nel nostro paese, ma ora il problema più urgente e più doloroso è quello della pace, che è l'aspirazione fondamentale delle classi lavoratrici dei paesi belligeranti, martoriati e sconvolti dalla guerra. Il governo sovietico degli operai e dei contadini russi propone a tutti i popoli e a tutti i governi di cominciare immediatamente le trattative per realizzare il fine cui ogni uomo deve tendere, per realizzare in tutto il mondo la pace. Per realizzare in tutto il mondo la pace. Yeah. allora, ha finalmente qualcosa da dirmi oggi? No. Perché no? Per gli stessi motivi di sempre, perché non sono una. Una cosa deve stare sicuro. Il suo vero nome non è Anna Machke. Le autorità prussiane si sono dimostrate molto disponibili nei suoi confronti, anche se non sembrano stimarla più del nostro soldato. Rosa Luxemburg ha un ruolo di rilievo nel movimento socialdemocratico tedesco, così come nel socialismo internazionale. È una pericolosa somigliatrice e fa propaganda con fanatismo a un movimento che cerca di sovvertire in senso rivoluzionario l'attuale ordine costituito con il ricorso ai mezzi più violenti. Ottimo lavoro, non è vero? Ci manca solo una cosa in questo nostro dossier: il nome dell'uomo che è stato arrestato insieme a lei. Studentessa che si lascia ammaestrare da te. Sembra che questo tu non l'abbia ancora capito. E adesso ho peggio. Ho avuto una tale nostalgia di te. Compagni impoltroniti. Che significa questa eccessiva prudenza? Ma si fa uno sforzo a leggere queste cose fino in fondo. È così accademico, è privo di anima. Ah, come siete diventati noiosi, Carl. Come se non aveste più sangue nelle vene. Certo, molto meno lusso del tuo. Come hanno reagito i compagni ai miei articoli? C'è chi ritiene più importante il proprio seggio al Parlamento che le lotte di piazza e lo sciopero di massa. Per i sindacalisti come le Ghibli, lo sciopero di massa è il più grave pericolo per la vita dei sindacati. E purtroppo gente come lui ha sempre più peso all'interno del partito. Evidentemente non capiscono che il movimento sindacale russo è nato dalla rivoluzione. Prima della rivoluzione non c'erano tracce di organizzazione sindacale. Che i sindacati si rafforzino solo in situazioni non conflittuali è una tesi del tutto sclerotizzata. Non devi convincere me, Rosa. D'altronde in Russia ho scritto un'opera su questo argomento. In prigione? E come ci sei riuscito? Anche nelle prigioni zariste c'è gente che ha coraggio. Persino gli articoli per te sono usciti clandestinamente. quanto spazio mi dai? Tutto quello che ti serve per darci una bella tirata d'orecchio. E adesso, compagni, vorrei presentarvi la dottoressa Rosa Luxemburg. Viene direttamente da Varsavia, dove a rischio della vita si è prodigata a favore della rivoluzione russa. Compagne e compagni, chi mi ha presentato ha concluso facendo di me una martire e una vittima della rivoluzione russa. Devo perciò iniziare il mio discorso contestando queste immagini. Dovete avere un'idea del tutto sbagliata di quello che è una rivoluzione. La stampa borghese russa ha diffuso all'estero il quadro di un immenso mare di sangue, di inenarrabili sofferenze del mondo. Ma questo è il punto di vista della borghesia, non del proletariato di classe. Per centinaia di anni il popolo russo ha subito in silenzio. Per centinaia di anni la Russia ha vissuto sotto il giogo dell'assolutismo. Ma se mi ha chiesto qualcuno quante migliaia di uomini sono morti di fame e di scorbuto in assoluta miseria? Ma si è mai chiesto qualcuno quante migliaia di proletari sono caduti sul campo di battaglia e del lavoro? E quanti bambini si sono ammalati nei villaggi o non hanno raggiunto nemmeno il primo anno di vita perché sono morti per denutrizione? Capirete che a paragone dei sacrifici e delle sofferenze di allora, le sofferenze di oggi sono minime. Ma mentre una volta il popolo viveva senza alcuna prospettiva che i suoi sacrifici e le sue sofferenze potessero finire, ora sa perfettamente perché cosa muore, perché cosa soffre, perché cosa combatte. Ciascuno sa, e ne ha piena coscienza, di partecipare alla liberazione del popolo, o perlomeno a quella dei figli e dei nipoti. Di bere. Soltanto non sono sicura di avere capito bene, perché io sedevo a sinistra, mentre lui oggi ha parlato solo rivolto a destra. Egli descriveva quello che potrebbe e dovrebbe accadere in Germania se noi fossimo trascinati in una guerra con la Russia dall'interventismo prussiano. Io non sono affatto certa di aver inteso correttamente Bebel. Per quanto ho capito, questo era il senso. Qualora fossimo trascinati alla guerra, non potremmo far niente per impedirla. Sciocchezze! Ora non mi permetterei mai di discutere la tesi della direzione del partito, perché per me, vecchio e devoto membro del partito, vale sempre l'antico detto latino: credo qui assurdo, credo perché è assurdo. Io temo soltanto che i nostri amici in Francia sarebbero in un bel imbarazzo se il discorso di Bebel volesse intendere proprio questo, perché là i compagni hanno dichiarato: meglio una rivolta di popolo che la guerra. Questo era il linguaggio virile del proletariato francese. E io spero che anche quello tedesco abbia il coraggio di dire: nessuna guerra contro la nostra lotta. Nessuna guerra! Nessuna guerra contro! In relazione al problema della guerra, si è discusso anche il problema dello sciopero generale. Già il congresso dell'Internazionale di Bruxelles del 1868 ha indicato le misure da adottare per scongiurare la guerra. Dal momento che l'ordine sociale andrebbe in crisi e non potrebbe vivere se la produzione si dovesse interrompere, le classi lavoratrici, che sono le sole trascinate al servizio militare, non dovrebbero far altro che sospendere il lavoro per bloccare l'iniziativa dei governi autoritari che non tengono conto della volontà popolare. Pensate forse che lo sciopero di massa possa essere fatto dalla direzione del partito? No! La direzione del partito deve essere spinta dalle masse! E ora se la direzione del partito non intende in altro modo il suo ruolo, sarà e dovrà essere spinta dalla base! Ed è in questo senso che vi prego di accogliere la mozione di Kautsky! Thank you. posizione forte, senza dover agire nella clandestinità. Anzi, abbiamo la possibilità di lottare nella legalità, entro certi limiti, signore. Finora, ad ogni elezione, abbiamo guadagnato voti. Rosa sa bene tutto questo, caro Aldo. Ma dobbiamo anche sapere che si rischia di perdere di più. È questo che Rosa non vuole ammettere. Che cosa avete ottenuto? Che siano i sindacati a decidere, senza consultare le masse. Ma sono le masse che ci hanno dato i voti. Le masse non ne possono più del vostro statico parlamentarismo. Vogliono che il partito guidi l'azione politica e non che si muova sempre al traino. Non possiamo proclamare nessuno sciopero generale di massa senza una necessità assoluta. Quando la situazione sarà matura non rinunceremo a questo strumento di lotta. Per ora anch'io sono convinto che, presi da un'eccessiva impazienza, potremmo perdere più che guadagnare, Rosa. Io temo che voi scambiate la pazienza con la passività. Pazienza ne ho per 10, se occorre. Il suffragio femminile, per esempio. Perché il partito si è impegnato solo formalmente? Questo adesso non c'entra, Claretta. C'entra? Clara ha ragione. Ti ho chiesto fin dal principio di occuparti di più della questione femminile. Una donna così abile nella polemica dovrebbe impegnarsi apertamente per il suo sesso. E lasciare la grande politica agli uomini. Sì, e se ne fossero capaci non avrei nulla in contrario. Rosa non vuole polemizzare a vuoto. Ha solo del coraggio. Non ne dubitiamo affatto, Luis. Ma non sempre il coraggio è una virtù. Il coraggio occorre averlo al momento opportuno. E l'avremo. Te lo prometto, Rosa. E io ti prometto di ricordarti la tua promessa, Augusto. Pensare di commettere un reato. Questa è una prova della sua straordinaria intelligenza. Nota per le sue posizioni radicali, e non a caso le è stato dato il soprannome di Rosa Rossa. Di conseguenza, l'imputata si renderà conto che la pena va adeguata al suo ruolo politico, ai suoi trascorsi, alle sue posizioni radicalmente contrarie all'interesse dello Stato. Propaganda contro il militarismo e dal momento che volevo impedire la guerra sono ricorsa palesemente e illegalmente all'unico mezzo che mi si offriva, cioè alla istigazione dei soldati. Se vi ordinano di sparare, non sparate. Ed è vero, signori giudici, una conclusione calzante e convincente, dettata da una logica incontro. Tuttavia mi consentano di chiarire che questa logica deriva dalle convinzioni della pubblica accusa e non da quelle della socialdemocrazia. Noi invece crediamo che la decisione di entrare o di uscire da una guerra non spetta agli stati maggiori, cioè gli ordini dall'alto e dal basso la cieca obbedienza, ma è la grande massa del popolo che decide e deve decidere se combattere o por termine alla guerra. Se poi la grande maggioranza del popolo arriva alla convinzione e a divulgare e far crescere questa convinzione e questa consapevolezza è compito di noi socialdemocratici. Se, ripeto, se la maggioranza del popolo arriva alla convinzione che le guerre sono solo una manifestazione di barbarie, sono reazionarie, immorali e nemiche del popolo, allora le guerre non saranno più possibili. Grazie. Di che cosa? Le guerre di barbarie. Sono reazionarie, immorali e nemiche del popolo, allora le guerre non saranno più possibili. Sono reazionarie, immorali e nemiche del popolo, allora le guerre non saranno più possibili. Sono reazionarie, immorali e nemiche del popolo, allora le guerre non saranno più possibili. Grazie. Di che cosa? Politicamente messa al bando. Una donna che il procuratore di Stato ha definito senza patria. Per quel che riguarda l'essere senza patria, non vorrei assolutamente fare il cambio col signor procuratore. Perché io ho una grande, cara patria, quale nessun procuratore prussiano possiede. Perché patria per me non è altro che la grande massa dei lavoratori, uomini e donne. Miei cari amici, voi ricorderete che nel dramma di Schiller Wallenstein dice: in quella notte in cui si mette a contemplare il cielo stellato per cercare di leggere nelle stelle il corso del futuro, il giorno è vicino e Marte regna sull'ora. Sono parole che valgono anche per il nostro tempo. Marte domina ancora, il sanguinario dio della guerra regna su di noi, il potere è ancora nelle mani di coloro che si reggono solo su un mondo pieno di armi mortali. Ancora si preparano guerre, ancora il Parlamento viene soffocato, ancora le leggi militari sono in continuo aumento. Ma, come dice Wallenstein, il giorno è vicino, il giorno che è nostro. Si sta avvicinando il giorno in cui noi, che stiamo in basso, arriveremo in alto. E no, per mettere in atto le fantasticherie di sedizioni, di rivolte e di sanguinose stragi che si presentano davanti agli occhi atterriti dei procuratori di Stato, no, noi riusciremo a prendere il potere solo per realizzare un nuovo ordine sociale che sia degno del genere umano. Una società che non conosca più lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, che non conosca più il genocidio. Una società che realizzi gli ideali tanto dei più antichi fondatori di religione quanto dei più grandi filosofi dell'umanità che sognavano questo avvenimento per vedere questo giorno che sorge così desiderato avverarsi il più presto possibile. Dobbiamo impiegare tutte le nostre migliori risorse, a dispetto di ogni procuratore e a dispetto di ogni potenza militarista.

visit euphoria. I visit pain. I long to hear your voice coming down like rain. Long the painted stone loves a beautiful song. Dopo la mezzanotte, fumo là, bevo su. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. E perciò in sequenza John Reed, i 10 giorni che sconvolsero il mondo. Poi la Rosa Luxemburg di Margaret Fontrotta. E in ultimo Radio Rahim, fai la cosa giusta. Disco partigiano, entro già con la canna in mano. E la scaletta: Erode, Matching Mool, Henry Cow, Palcoscenico al Neon, The Doors, Electric Masada, Iggy Pop and the Stooges, Fly Lotus, The Resident, Calibro 35, Nebula. Ed ora Danilo Fatur. Disco partigiano, entro già con la birra in mano. Disco partigiano, entro. Un po' di suggestioni, un tentativo di. Disco partigiano, entro già con la canna in mano. Di far intendere che, per quanto abbia un secolo, l'atto rivoluzionario è sempre giovane. Atto rivoluzionario che è innanzitutto azione, pratica, elaborazione della stessa, comprensione, sapere. Mettere in connessione. E vi raccontiamo, vi rammentiamo, più che raccontiamo, partigiano. Nel frattempo c'era, appunto, da rammentare, da presentare Winter 70 Index in concerto. In realtà poi non ci siamo messi in contatto con chi ci poteva raccontare la cosa, perché ci siamo persi, appunto, fra Zanzarak Mer su Firenze, mixer, computer, dischi che andavano, dischi che venivano, cursori che perdono il canale. Amore, le zanzare di polpo. Ballano trance elettropop. Quindi venerdì prossimo 10 novembre 2017 dalle 22 al Forte Prenestino, centro sociale occupato e gestito Forte Prenestino, via Federico D'Alpino 100, Roma, concerto Winter Severity Index, DJ set a seguire con Dark Wave, Electronic Industrial con il Noctibus Panis, Electro di prove tecniche di trasmissione, Mittel Geisen, Skillar. Amore. Radio Onda Rossa che vive grazie al vostro contributo, e di questo contributo ce n'è gran bisogno in questo momento specifico. Ce n'è bisogno sempre, ma poi ci stanno le emergenze, come dire, i buffi, le bollette da pagare a tutti i costi. Insomma, per dirla, stiamo sotto. E quindi andate sul sito www.fondorossa.info, andate su sottoscrivi. Lì c'è una bella paginetta dove ci sono tutte le modalità, 61804001 è il numero del conto corrente postale. Intestato Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma San Lollo. Mi raccomando, senti Martello che fa bene. Venite all'iniziativa, venite al banchetto, lasciate, senti la pressa che fa, la sottoscriva per la radio, lasciatela sostanziosa. Che fa don don, senti Mao che fa don don, senti Lenin che fa Stalin, senti Stalin che fa Lenin, senti Lenin che fa Stalin, senti Stalin che fa Lenin. La programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finisce con noi. La prossima settimana scaletta completa, cercheremo anche in, se la prossima, vediamo la prossima ancora, insomma. Tocca un po' organizzarci, cosa assai difficile per il caos che regna nella redazione di 25 O'Clock. Radio Onda Rossa, per cui. Senti Martello che fa bene. Però insomma c'è. Senti Martello che fa bang bang. Per il 9 dicembre un'altra iniziativa importante della radio, appunto, a parte la scarceranda che è in procinto di uscire, che quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni vi daremo tutte le indicazioni per venirvela a prendere appena la avremo, sicuramente qua in radio, e poi le varie iniziative che faremo in giro per la città per andare a portare la nuova scarceranda. dicevamo appunto 9 dicembre, quel che sappiamo è che ci saranno Ombra d'Aosta, Roselux e Franti. Avete sentito bene? E quindi avremo modo anche di curare questa iniziativa, di farvi parlare con i protagonisti, farvi ascoltare perlomeno i protagonisti qui dai microfoni della radio. Senti Lenin che fa Stalin, senti Stalin che fa Lenin. Nel frattempo appunto vi diciamo, la programmazione finisce ora, si riprende domani mattina, dopo che vi avrà tenuto compagnia per la notte la compagna automatica Ario, dalle 8 con la lettura delle prime pagine, la rassegna stampa cittadine redazionali della radio, fino al giornale dell'ora di pranzo, poi appunto il GR, lo spazio comunicazioni visionari, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa e Tracce di Cinema, che è ritornata, Tia Blues, e non è mai andata via. Oltre alla Black Music, la Schiena del Sol alle 17. Poi Mezzedes del giovedì 18-20. Alle 20 lo spazio comunicazione, poi lo spazio 2023. È riservato per il martedì autogestito da femministe e lesbiche. E poi Apostasia alle 23 a chiudere la programmazione della radio. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari. Tutti i luoghi dove vengono reclusi i migranti. E cosa c'è di tanto vicino agli argomenti che in qualche maniera abbiamo così suggestionato questa notte. Se non forza lavoro super sfruttata e la divisione internazionale del lavoro ha fatto diventare molte volte proveniente da quello che una volta veniva definito il sud del mondo, dove sud del mondo però è un'accezione molto ampia. Senti Martello che fa bene, senti la pressa che fa bene. Senti Martello che fa bene. Noi ci vi lasciamo così. Senti Mao che fa don don. Senti Mao che fa don don. Senti Lenin che fa Stalin, senti Stalin che fa Lenin. Senti Lenin che fa Stalin, senti Stalin che fa Lenin. 100 anni o non 100 anni. Vi lasciamo sotto la luna comunista. Come da 15 anni a questa parte. No, non sono in realtà 15 anni a questa parte, perché la sigla 15 anni è 25 o'clock e la sigla la abbiamo messa là, almeno Under Communist Moon, un po' di anni dopo, insomma, del tempo dopo, 12-13 anni, dai. Non ci ricordiamo. Bella a tutte e tutti, ci risentiamo mercoledì prossimo, come dicevo, al completo, tornerà anche Elettrodo e probabilmente nella fascia serale anche Allegro con Fuoco. Quindi dai. Senti Lenin che fa Stalin, senti Stalin che fa Lenin. Coming. Dragon's Lair.